Il comunismo collassato, tutti quanti abbiamo sperato in un mondo migliorato, ed invece abbiamo sbagliato, non avevamo calcolato quanto ci avrebbe devastato il liberismo incontrastato, ma ci hanno assicurato, lasciate fare al mercato globalizzato, senza regole e senza Stato, perché il mondo è cambiato, tutti quanti avremmo guadagnato, il benessere agognato, col capitalismo più frenato, e qualcuno ci ha creduto, i liberisti del mercato, nella sinistra hanno trovato un alleato inaspettato, le radici hanno strappato, le tradizioni hanno abolito, i diritti hanno barattato, anche l'anima han venduto, ma ci hanno assicurato, le ideologie sono il passato, lasciate fare al mercato, si sarebbe autoregolato, la scuola pubblica han tagliato, la sanità privatizzato, la finanza sponsorizzato, il lavoro svalutato, ed il viva caporalato, con il mondo precarizzato, le pretese hanno arginato, il progresso sociale azzerato, il riccone sempre più si è ingrassato, tutti gli altri hanno solo patito, è tornato del tempo andato, con il popolo schiavizzato, tutto quello che era stato tenuto, per cui i vecchi hanno lottato, tutto quanto dilapidato, l'ascensore sociale bloccato. Finalmente tutti hanno capito come il mondo ha sempre girato, il liceo vecchio è declassato, l'avviamento per il proletariato, il lavoro assicurato, quello a tempo indeterminato è contro la legge del mercato, nessuno deve essere tutelato, e se il padrone non sarai gradito, se non sei un allineato, ingiustamente verrai licenziato, e poi con un obolo risarcito, e l'operaio è anche l'impiegato, tartassato come il pensionato, invece il ricco sempre meno ha pagato, e quando evade viene condonato, i populisti hanno rilanciato la guerra tra il povero e lo sfruttato, lo stagionale contro il disoccupato, e tutti insieme addosso all'immigrato, le cooperative hanno snaturato, i banchieri risparmi rubato, le multinazionali le leggi dettato, pure i seri ne hanno brevettato, poi le guerre hanno alimentato, con la scusa di aver esportato la democrazia in un altro stato, ma solo dove il capitale ha provato, ma il dittatore è stato abbattuto, il diritto ristabilito, cosa importa se prima era stato da loro stessi incoronato, i venditori di morte hanno brindato, i loro armamenti pubblicizzato, che i militari sul campo hanno provato, nuove strategie hanno collaudato, popoli interi hanno sterminato, e i territori contaminato, il grande esodo è cominciato, il mare di rosso si è colorato, il mondo islamico demonizzato, il musulmano debellato, il suo terreno confiscato, la parte è ripristinato, ma qualcuno si è ribellato, dal fanatismo manipolato, si è sentito frustrato e umiliato, tanto da morire in un attentato, nel paese che più si è armato, quello più militarizzato, la sua potenza niente ha potuto, contro l'aereo suicida dirottato, e il cittadino sempre più incazzato, la dignità infine ha perduto, la politica l'ha schifato, anche di votare si è stufato, contro le elizie rivoltato, contro il partito e il sindacato, la democrazia ha ripudiato, all'uomo forte si è affidato, alla fine che risultato, con l'economia in mano al privato, il popolo sempre più spaventato, di 100 anni è arretrato, ai nostri figli cosa abbiamo lasciato, guarda il mondo com'è diventato, fino alla morte è sfruttato, inquinato, isole di plastica abbiamo creato. E nostri figli cosa abbiamo lasciato? Guarda il mondo com'è diventato, fino alla morte sfruttato, inquinato, isole di plastica abbiamo creato.